cucciù, cucciù, cucciù. Caspita. Ok, non c'è problema. Quindi... pazienza. Non c'è... pazienza. Per la ragazza che ci ha bloccato, a un certo punto niente, pazienza, vabbè, meglio così. Tutto è nero, quindi pazienza, meglio così. Va bene, scendo al centro storico, così mi riverno un pochettino stasera. C'è un nome che non scendo in pratica, quindi a un certo punto mica devo pagare le balasse, quindi accendo, mi diverto qua via la lucciola e poi me ne siamo a casa. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola?